البلاد طردوا الأجداد. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا Buongiorno Palestina. Ogni mercoledì alle 17:30 su Radio Wombat. Oggi parleremo con Francesca Albanese, ricercatrice presso l'Università della Georgia, che è stata funzionario legale presso l'UNRWA, Agenzia delle Nazioni Unite istituita nel 49 per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi dopo l'espulsione del 1948 dalla loro terra, evento ricordato come la Nakba, ossia la catastrofe. A questi profughi si aggiunsero quelli del 67, dopo la cosiddetta guerra dei sei giorni, la Naxa. Attualmente l'UNRWA sostiene vari settori dell'istruzione, della salute, dei servizi sociali e degli aiuti di emergenza per circa 5,6 milioni di profughi palestinesi nella striscia di Gaza, in Cisgiordania, in Giordania, in Libano e in Siria. Francesca Albanese è anche autrice di un libro dal titolo Palestinian Refugees in International Law. Troverete i riferimenti a questa pubblicazione sulla pagina Buongiorno Palestina 61 sul blog di Radio Wombat. Ascolterete l'intervista a Francesca Albanese subito dopo la selezione stampa a cura di Amicizia Italo-Palestinese e un breve intervallo musicale. Buongiorno Palestina, la selezione stampa di questa settimana è da Leo. Abbiamo scelto 5 articoli. Il primo dalla New Arab Staff, una notizia interessante, quasi non aspettata. Il ministro della difesa israeliano, Gantz, si dice pronto a parlare con Hamas. E questo è un articolo di Invicta. Dopo l'incontro con il coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace nel Medio Oriente, Gantz, che è anche vice primo ministro, ha affermato che Israele è pronto ad arrivare ad una soluzione e contribuire a migliorare le condizioni per i residenti di Gaza, fin tanto che Hamas acconsenta al rilascio dei soldati israeliani catturati. Io dico soltanto aspettiamo e vediamo. Ho trovato un'analisi molto interessante della Fondazione Rosa Luxemburg di Berlino sulla situazione a Gaza e soprattutto degli aiuti internazionali. Come forse sapete, si prevedeva già per il 2020, no, in cui la striscia di Gaza sarebbe stata inabitabile. Siccome le restrizioni aumentano, la situazione soprattutto con il Covid diventa sempre più insopportabile. Inoltre le restrizioni israeliane sui cosiddetti beni a duplice uso, che potrebbero essere utilizzati per scopi civili e militari, stanno mettendo a dura prova lo sviluppo economico. E non solo questo, dopo ogni attacco indubbiamente troviamo degli impianti necessari per la sopravvivenza distrutti. E l'autrice, che è la direttrice dell'ufficio della Fondazione Rosa Luxemburg, si chiede: ma perché i donatori, l'Unione Europea, le Nazioni Unite, le ONU, non fanno ricostruire agli israeliani questi danni oppure pagare i danni? Un'analisi che trovo molto interessante. Un'altra notizia, si può dire aspettata, leggiamo su Electronic Intifada. Il regalo dell'ANP, ossia l'autorità palestinese a Biden, il ritorno ad una strategia fallimentare, perché la notizia, secondo l'autorità nazionale palestinese, ha deciso di riprendere il coordinamento con Israele dopo averlo sospeso per 6 mesi, non rappresenta per nessuno una grande sorpresa. Si tratta allora di un regalo di benvenuto a Joe Biden, aspettando e sperando che lui faccia di più del suo predecessore per Israele. Indubbiamente Trump non ha fatto niente per peggiorare la situazione, ma forse, come abbiamo anche trasmesso la settimana scorsa, non c'è da aspettarsi troppo da parte di Joe Biden. Un articolo che abbiamo evidenziato e più che preoccupante è del Manifesto, è scritto da Zvi Schuldiner, un israeliano che è dalla nostra parte, vuol dire la parte dei diritti palestinesi. Un razzista diventa presidente dello Yad Vashem. Yad Vashem, che sta per il simbolo della Shoah, oppure contro ogni antisemitismo, contro antirazzismo, avrà un presidente razzista, ossia il generale e ex ministro estremista Efi Haitham, che ha suscitato questa nomina naturalmente molte proteste. Questo generale estremista ha dichiarato varie volte di espellere tutti i palestinesi dalla Cisgiordania, gli arabi in Israele, sarebbe una quinta colonna, e sarebbe da estromettere dal Parlamento e dalla politica. Poi, tra l'altro, la sua unità, lui era comandante durante la prima intifada, aveva ammazzato un prigioniero palestinese. 4 dei suoi subordinati sono stati condannati, lui no. Meno male che più di 750 scienziati e dipendenti dai musei e memoriali ebraici in tutto il mondo hanno firmato una lettera di protesta contro questa nomina. Alla fine un'informazione o una notizia di violenza ordinaria e giornaliera, potremmo dire, per la Palestina. Soldati israeliani attaccano un'ambulanza per catturare un palestinese ferito. E questo troviamo sul antidiplomatico. Abbiamo inserito anche il video dove potete vedere questo attacco che è avvenuto senza rispetto di nessun diritto internazionale umanitario, ma, come abbiamo detto, una notizia di violenza ordinaria in Cisgiordania. Vi saluto per questo mese e passo il timone a Claudio, non dimenticando raccomandare chi vuole approfondire queste notizie vada sul sito amicizia-italo-palestinese.org, dove troverà tutti gli approfondimenti. A risentirci tra qualche mese, Leo. سلام انا تقريبا مشيت اشوف وشك بخير انا تقريبا نسيت ومن فرقك من كتير بعد لقانا الاخير مش بستطعم كلام. Sono Marisa, oggi abbiamo ai nostri microfoni Francesca Albanese. E prima di iniziare le domande con lei, vorrei poter focalizzare la questione di cui si parlerà oggi e lo stato in cui si trova a operare attualmente l'UNRWA. Vorrei fare quindi un preambolo. La questione dei profughi palestinesi è stata oggetto di varie risoluzioni ONU. La numero 194 del dicembre del 1948, che sanciva il diritto al ritorno dei profughi, la numero 242 del novembre 1967, che richiamava a una giusta soluzione del problema dei palestinesi. ma a 72 anni da quel lontano 1948 ancora rimane una questione, quella dei profughi, non risolta e soprattutto non più menzionata nei vari accordi, ultimi quelli di Oslo, per non parlare poi quelli di Abramo. E invece sempre rivendicata dal popolo palestinese come questione prioritaria per porre fine alla diaspora e per il riconoscimento del diritto al ritorno sulla propria terra. Negli ultimi tempi, sotto l'amministrazione Trump, vi sono stati continui attacchi per chiudere l'UNRWA, che se anche non è stata ancora smantellata, ha visto però ridurre drasticamente gli aiuti finanziari, soprattutto USA, tali da rendere molto difficile la possibilità di continuare a garantire gli aiuti umanitari e quindi il sostegno delle condizioni dei profughi. Dopo questa introduzione, quindi, vorrei domandare a Francesca Albanese, innanzitutto, qual è stato il tuo ruolo all'interno dell'URVA e in quali paesi, in quali villaggi hai operato e in che periodo? Ciao a tutti e grazie, grazie di avermi invitato. Allora, io ho lavorato per UNRWA dalla fine del 2009 alla fine del 2012, per circa 3 anni. E era la fine appunto della mia decade di impegno con le Nazioni Unite e ho lavorato per il Dipartimento di Affari Legali nella sezione che si occupa di diritto internazionale, di stanza a Gerusalemme. Della Gerusalemme occupata per la precisione. E non posso dire di aver operato nei villaggi perché il mio ruolo era quello di consulente giuridico presso l'agenzia, quindi lavoravo a servizio del commissario generale e dei vari paesi, in tutti i paesi, cioè anzi in tutte le aree dove opera UNRWA, quindi Gaza, Libano, Siria, Cisgiordania, Giordania. E cosa ci può dire sulle condizioni di vita dei profughi nei paesi in cui sono rifugiati e se ci sono, fra l'altro, delle differenze nel riconoscimento del loro status? Allora, questa è una domanda a cui si potrebbero dare infinite risposte a seconda del tempo in cui questa viene posta. E posso dire che la risposta comunque ci sarebbe una linea discendente, nel senso che se la si potesse rappresentare come un diagramma, nel senso che le condizioni di vita dei palestinesi in generale sono andate peggiorando. Non è possibile riassumerle brevemente perché cambiano di paese in paese e anche in base a vari fattori, ma per semplificare vi dico che a parte la Giordania che ha concesso la cittadinanza ai rifugiati che sono arrivati nel 1948, negli altri paesi dell'area in cui UNRWA opera, ma in generale in tutto il Medio Oriente, nessuno Stato ha concesso la cittadinanza ai palestinesi. Questo per preservare il diritto al ritorno, ma io da legale vi dico che è una fandonia, nel senso che concedere la cittadinanza sì, sospende la protezione che nel diritto internazionale si ha in quanto rifugiato, ma non estingue e non vanifica i diritti che i profughi hanno per l'ingiustizia che hanno subito a causa, insomma, dal 1940. E poi. Le condizioni di vita adesso sono terrificanti perché c'è Gaza che è sotto un blocco navale, marittimo e aereo. Sapete le condizioni di Gaza? Insomma, avete un pubblico sensibile alla questione da 12 anni ormai. Hanno ridotto Gaza al Medioevo e le condizioni sono veramente molto difficili. C'è l'80% della dipendenza da aiuti umanitari, il 45% della disoccupazione. La Cisgiordania è sotto giogo militare e una colonizzazione violenta, e che diventa violenta col progredire del tempo. Il Libano sta affondando in una spirale di povertà e crisi politica, e i rifugiati, essendo sbuniti di qualsiasi diritto, perché non, cioè sono riconosciuti come presenza, una parte di loro, ma non, sono totalmente marginalizzati dal punto di vista economico, civile e politico. E in Siria c'è una guerra in tutti questi paesi i palestinesi sono marginalizzati in quanto palestinesi. La Giordania sembra essere un'eccezione perché la maggior parte di loro sono cittadini, ma non tutti sono comunque molto discriminati. Quindi questo Questa è la situazione generale, senza parlare del resto dei paesi arabi, dove dal 90 in poi c'è stato un aggravarsi delle condizioni di vita dei palestinesi nella diaspora. E questo sta succedendo anche in Europa. E tornando all'attività dell'URVA, quali sono stati i problemi, gli ostacoli che hai incontrato e eventualmente anche vissuti da te perché si potesse pensare di arrivare agli obiettivi per cui è stata fondata questa agenzia delle Nazioni Unite? Allora, faccio una precisazione. Non si può capire il mandato di lingua e le difficoltà che l'agenzia ha senza tenere in considerazione che ANWA è stata creata agenzia ancillare rispetto ad un'altra agenzia che era stata creata un anno prima per risolvere il conflitto sulla questione dei rifugiati palestinesi. Questa agenzia, questa commissione che si chiamava United Nations Integration Commission in Palestine, era prevista dalla risoluzione 194 che, come tu giustamente dici, riafferma, non sancisce, scusami se si correggo, ma da giurista l'URVA e le sfide che si trova ad affrontare sono di ordine pratico, politico, se si vuole legale o umanitario. Dal punto di vista pratico, allora, URVA si trova ad affrontare dei problemi di varia natura, tutti molto gravi. Problemi di ordine pratico sono il fatto che, a fronte di una mancanza di soluzione politica alla questione dei rifugiati palestinesi, una mancanza di ritorno alle loro case, sì, è vero, ormai distrutte, ma comunque loro quel diritto ce l'hanno e hanno il diritto di esercitarlo, oppure di continuare la propria vita altrove. A fronte appunto di questa mancanza, il numero dei rifugiati continua a crescere. E così il disastro umanitario in cui URVA opera, descritto poco fa. E la difficoltà politica è che, oltre a non avere gli strumenti, il consenso per discutere delle possibili soluzioni politiche, perché la commissione di cui vi parlavo prima, UNCCP, ha smesso di operare dagli anni 60 e URVA è stata abbandonata un po' a se stessa, adesso c'è da 15-20 anni, ma soprattutto negli ultimi 15 anni c'è stato un progressivo aumento degli attacchi contro URVA da parte di parte di Israele e degli Stati Uniti in modo particolare. Questo si è aggravato durante la presidenza Trump. Si vuole colpire ANWA per colpire i rifugiati palestinesi. E poi che appunto c'è la crisi umanitaria, che è quella della Syrian guerra, del tracollo libanese e della situazione disastrosa nei territori occupati, nella Palestina occupata. In tutto questo c'è il problema che ANWA non riesca ad uscire dall'angolo umanitario in cui l'hanno spinta e un po' si è spinta, secondo me, e questo che io dico nel libro. Il mandato di Ufa è molto più globale di quello che è l'Ufa. Ma l'ultimo punto che volevo sollevare è la crisi finanziaria. Il commissario generale di Ufa ha appena dichiarato che non arriveranno più del mese con le finanze che hanno e non potranno pagare gli stipendi a 30.000 persone. E ricordo che la responsabilità dei palestinesi e della comunità internazionale, di stati della comunità, di fare che un'agenzia delle Nazioni Unite da sola risolva un problema così drammatico. Facciamo ora un breve intervallo musicale. صباح الصباح فتح علي والجبنة فيه شي ولا ملي بس المزاج رايق وسليم نادي الأمل ما بكي راحي الصبر طيبة Senti, quindi la percezione che ha Israele nei confronti dell'UNRWA è di soggetti indesiderati, cioè cercano quindi di ostacolarvi, da quanto posso aver evinto dalle tue parole. Allora, secondo me il rapporto che Israele ha con l'UNRWA si riassume in questo modo: male necessario, perché l'UNRWA fa comodo ad Israele. Se non ci fosse UNRWA nei territori occupati, Israele si dovrebbe provvedere ai servizi che UNRWA eroga, perché se è vero che appunto c'è un'occupazione militare e Israele diciamo il potere occupante, come si dice in inglese, occupying power, è Israele che deve far fronte a tutto ciò che concerne l'amministrazione della quotidianità, delle esigenze della vita ordinaria dei palestinesi. Al tempo stesso UNRWA rappresenta e dopo forza rappresenta le istanze, la resistenza palestinese, suo malgrado, e questo gli israeliani non lo vogliono, e quindi stanno cercando di spingere UNRWA fuori dai territori che Israele vuole controllare, da Gerusalemme. C'è una battaglia invisibile e forsennata per cacciare UNRWA da Gerusalemme, e su questo nessuno è molto. Appunto, cioè, per questo dico, il problema è finanziario, ma è il stesso di un grandissimo problema. Senti, e invece, ecco, ti volevo chiedere, la percezione invece che hanno i profughi palestinesi di voi, inviati dell'UNRWA, cioè come vi vivono, come un sostegno, come se fate dell'elemosina con aiuti sostanziali o che altro? Allora, i palestinesi in genere odiano questo essere associati all'elemosina, alla carità. Questo è vero oggi, dopo 72 anni, e quando molti di loro hanno veramente bisogno di aiuto umanitario, ripeto, per le condizioni deplorevoli in cui sono stati costretti a ritrovarsi. E questo succedeva anche 70 anni fa, perché i palestinesi hanno un grandissimo, un fortissimo spirito imprenditoriale, sono un popolo molto degno di se stesso ed orgoglioso, e sanno che comunque ciò che gli dà UNRWA è comunque poco in termini materiali. Quindi sono legati ad UNRWA, dal mio punto di vista. Ha ragione un mio collega ricercatore palestinese di origine palestinese svizzero, si chiama Jalal Al-Husseini, che ha descritto questa relazione come a long but lasting marriage, un'unione lunga e difficile ma duratura, perché i palestinesi, così come UNRWA vive i palestinesi per i palestinesi, così i palestinesi sanno che UNRWA è l'ultimo baluardo che gli resta, che impersonifica la responsabilità delle Nazioni Unite nei loro confronti. E quindi, anche se sono consapevoli che l'agenzia dovrebbe fare di più, comunque la difendono e la proteggono. Si aspettano chiaramente di più, e non in termini di assistenza umanitaria, in termini di protezione e di tutela giuridica. Sì, sappiamo che appunto in Palestina vivono varie ONG che operano sul territorio. Ecco, l'UNRWA collabora, ha rapporti con queste ONG, e che tipo di rapporti intrattiene? Allora, come in tutte le agenzie delle Nazioni Unite, come tutte le grandi organizzazioni, c'è un livello politico e un livello operativo. Io penso che a livello operativo ci sia un rapporto discreto di lavoro e interazione con una serie di altri operatori umanitari, incluso organizzazioni non governative. UNRWA siede a diverse, e questo ve lo dico con certezza perché ero parte di questi meccanismi di coordinamento e di incontro con altre organizzazioni non governative, gruppi legali, eccetera, eccetera. Io ho anche cercato di intensificare durante il mio anno a questo tipo di interazione, per esempio organizzando delle riunioni con la DIL, che conoscete, l'organizzazione che è un'organizzazione governativa che si occupa di che lavora ed è composta da. Senti, visto anche quello che appunto ho detto prima per quanto riguarda questi tagli dei finanziamenti, no? Che limitano quindi l'operatività e la possibilità di continuare a erogare nella giusta misura gli aiuti umanitari, come potresti definire o dire sull'attuale capacità di essere sul territorio e di aiuto dell'agenzia URVA? Allora, se quello che mi chiedi è come si può aiutare UNRWA ad essere più presente e più efficace, ci deve essere veramente un cambio nel modo in cui UNRWA viene finanziata. Bisogna creare un meccanismo di finanziamento stabile, perché queste donazioni sono contributi volontari che gli stati si impegnano a dare e poi bisogna che annua si corra perché sono erogati. È insostenibile. Cioè, io ho visto commissari generali capaci, brillanti, visionari, rincorrere gli stati, spendere il tempo del loro mandato a rincorrere gli stati perché pagassero ciò che si erano impegnati a versare. Non dovrebbe essere così, ripeto, deve essere un'azione volontaria degli stati di contribuire in modo sistematico, ma questo deve avvenire in modo coordinato all'interno dell'Assemblea Generale. E poi un'altra cosa importante è che questa riforma si deve accompagnare ad una visione strategica di UNRWA insieme a UNHCR, per garantire protezione e discussione sulle soluzioni. Bene, per il momento, Francesca, sospendiamo un piccolo stacco musicale e poi riprendiamo. Forsaken by hope. In a culture searching for its place. Lifelong friends will struggle with an impossible choice. Ultima cosa per finire sull'URVA, l'URVA come ha operato sul territorio? Perché quello che mi mancava dalle tue risposte è al di là dei finanziamenti economici che poi hanno avuto un taglio, ma in che cosa si è evidenziata l'attività? In asili, scuole, istruzioni, che cosa? Allora, UNRWA, diciamo quello che ha, ciò in cui si è evoluta è un'agenzia che da fuori può sembrare un quasi stato, è anche stata definita così da alcuni studiosi. È un'agenzia che ha 600, non vi do i numeri, ma centinaia di ospedali, di cliniche, di scuole, offre istruzione fino all'equivalente della scuola media a 500.000 bambini. Rifugiati in tutta l'area in cui opera, offre servizi di assistenza sanitaria di base a tutti i palestinesi che ne abbiano bisogno, forme di formazione al lavoro dopo la scuola, in Libano addirittura dei percorsi universitari e quindi opera come un quasi stato in questi stati. Il problema è che questi servizi costano e i paesi arabi sono aiutanti a fornirli, perché per loro questa è una responsabilità internazionale, e gli internazionali piano piano se ne lavano le mani. Urwa dà lavoro a 30.000 persone che sono prevalentemente maestri e hanno formato nel corso dei decenni tutta quella forza lavorativa che poi ha sostenuto il crescere delle economie dei paesi del Golfo, dove c'erano centinaia di migliaia di palestinesi, 400.000 pensate in Kuwait nel 1990, 500.000, quindi sono cifre grandissime, e oggi Urwa non esercita più quel ruolo perché non ha il potere politico ed economico per sostenere i palestinesi in questo modo, ma al tempo stesso le necessità ci sono, come dicevo all'inizio. E poi fa anche protezione, però è una protezione che viene ostacolata fortemente sia dai governi, da Israele, non sostenuta adeguatamente dagli stati, insomma dalla comunità internazionale. Permettetemi di dire che quando gli americani nel 2018 hanno tagliato tutti i fondi ad UNRWA, il programma che è saltato per primo è stato quello appunto di tutela, di protezione, si chiama di protection, che è fondamentale in tutti i paesi dove UNRWA opera. Quello che ora voglio trattare. Ti faccio un'ultima domanda che mi è consentito fare. Come giurista, tu sei una giurista, ti sei chiesta perché l'UNRWA si è interessato sempre del soccorso economico, diciamo, degli aiuti giustamente ai rifugiati, e demandando il problema della risoluzione dei profughi alla politica, che questa politica naturalmente non ha risolto. Allora, noi nel nostro libro diciamo che questo è un po' il peccato originale di Urwa, che non è attribuibile ad Urwa, perché come vi dicevo, prima di creare Urwa, le Nazioni Unite avevano già creato la commissione UNCCP, ripeto, UN Reconciliation Commission for Palestine, era quella che doveva condurre i negoziati politici, e lo avrebbe fatto se non fosse stata depotenziata, perché era un elemento scomodo. Ha fatto un lavoro molto importante di lametta tra i paesi arabi e Israele, però non è riuscita a portare a termine il mandato. Nel momento in cui questa agenzia dagli anni 60 in qua è venuta meno, ha trasformato, per certi versi ha potenziato fortemente il suo mandato su raccomandazione dell'Assemblea Generale, e più incoraggiata dall'Assemblea e sostenuta dall'Assemblea Generale. Quindi il mandato che esercita oggi è molto diverso da ciò che accadeva nel 70 anni fa, ma al tempo stesso è un po' diciamo senza una visione chiara sul futuro, perché ripeto, anche ove potesse e volesse esercitare un mandato più completo, come secondo me da giurista potrebbe fare, ci sono troppi ostacoli e poca cattiva informazione sul ruolo di UNRWA. Facciamo ora un breve intervallo musicale. والجبنة فيه شي ولا ملي nostra conversazione con Francesca Albanese, soffermandoci a parlare di venerdì scorso, 27 novembre, quando il meeting online organizzato dall'Università di Salerno sui profughi palestinesi è stato disturbato da hackers che l'hanno interrotto a metà. Cosa pensi, Francesca, di questo episodio? Allora, io devo dire, fatemi fare una premessa. L'Università del Salento che ha organizzato l'evento è stata molto coraggiosa, perché non sono molte le università che di questi tempi parlano di Palestina. E infatti tutti noi relatori, io che presentavo il libro che ho scritto con l'ex Zuckerberg, Luisa Morgantini e Lucia Goracci, eravamo tutte molto entusiaste dell'invito. Chiaramente ci ha fatto un grosso dispiacere quello che è successo, perché soprattutto io parlo a titolo personale, io sento la responsabilità di condividere ciò che ho preso in tanti anni di lavoro con i palestinesi e con altri che aiutano, che sostengono la loro causa, lavorando in Palestina, sulla Palestina. Venerdì non ho potuto fare fronte a quella responsabilità e questo mi ha ferito molto, al di là delle offese rivolte a me e a tutti gli altri. Scusate, volevo correggermi, ho detto prima Università di Salerno, invece l'Università del Salento. A parte l'interruzione, comunque noi che eravamo appunto in linea abbiamo comunque apprezzato la tua presentazione del libro, in cui in particolare viene riportata la mappa mondiale della diaspora palestinese, dalla quale risulta che, a parte i paesi arabi, quelli in cui vi è maggiore concentrazione di palestinesi sono la Norvegia e i paesi asiatici. Ecco, questo ci appare un po' strano, ce ne vuoi parlare? Sì, no, la mappa, quello che avete, purtroppo questa parte forse si è capita poco, perché lì cominciavano i disturbi. La mappa in realtà aveva diversi colori a secondo della concentrazione della presenza palestinese, cioè tutta la diaspora dal 48-67 in poi. I confini che avete visto voi, quelli marcati in rosso, la Scandinavia, la Norvegia, i paesi asiatici, sono quelli che io chiamo le nuove frontiere dell'esilio palestinese, non perché ce ne siano tanti numericamente, ma perché sono cresciuti esponenzialmente dal 2000-2010 in qua il numero di arrivi. Vi faccio i paesi del nord Europa sono ancora una speranza dal mio punto di vista come legale per la vita e del futuro dei palestinesi che vi si recano. Ma io vi parlo dall'Indonesia, dove sono arrivati migliaia di palestinesi in fuga dall'Iraq, da Gaza, dalla Cisgiordania, dal Libano, dalla Siria. Negli ultimi anni molti di quelli che scappavano dalla Siria erano stati rifiutati dall'Egitto, che è un paese che ha firmato la convenzione di Ginevra la convenzione sui rifugiati del 1951, e paesi europei che non li aveva riconosciuti meritevoli di protezione. Oppure era gente che veniva dall'Arabia Saudita. Io ho stretto amicizia con un palestinese che è cresciuto, ha trascorso alla mia età, ha una quarantina d'anni, ha trascorso tutta la sua vita in Arabia Saudita. Era manager per una grossa multinazionale, gli hanno tolto il permesso di soggiorno. Ecco che cosa significa essere apolide per generazioni, che diventi un niente alla mercé del governo di turno. E quindi i palestinesi che si spingono verso queste nuove frontiere sono quelli che io chiamo senza più speranza di accoglienza in un paese che rappresenta un porto sicuro storicamente, dove ci siano anche dei legami con una diaspora preesistente che li accolga e che li aiuti. In Indonesia molti palestinesi si sono rivolti alla polizia, hanno detto beh, andiamo in carcere, perché non sapevano di cosa campare. Ma è questo che questo popolo merita 72 anni dopo, soprattutto considerando che la terra che gli è stata presa era fornita di tutto. Cioè sono vittime di un'ingiustizia che si alimenta di se stessa e si replica. L'impunità che è stata garantita di Israele e che adesso viene garantita anche agli stati arabi, senza eccezione, nei confronti di ciò che fanno i palestinesi è intollerabile. Sì, purtroppo il quadro che bisogna rilevare è proprio questo, sì. E noi che ci occupiamo da anni della questione palestinese non possiamo altro che rammaricarci di questo, diciamo, consenso complice su il calpestamento dei diritti di un popolo come quello palestinese. E senti, a conclusione di questa nostra conversazione molto interessante, vorrei introdurre un'ulteriore questione. Lo Stato di Israele nega da sempre il diritto al ritorno. La legge Stato-Nazione del 2018 stabilisce nel suo primo articolo che l'applicazione del diritto all'autodeterminazione nazionale nello Stato di Israele è esclusiva per il popolo ebraico, sancendo così di fatto la nascita di uno Stato etnocratico basato sulla specificità ebraica. Ecco, Francesca, cosa pensi alla luce di quanto ho detto circa una possibile soluzione durevole e del problema dei palestinesi rifugiati? Allora, penso che quello, allora, Israele, in quanto stato sovrano, fa un po' quello che vuole e poi rende conto ai propri elettori. Però questo non significa che la comunità internazionale debba rimanere indifferente a quel che succede ai palestinesi, agli arabi di Israele o a quello che Israele fa ai palestinesi, anche nei territori che non sono di Israele, che sono stati dichiarati, per quanto mi riguarda, dal 1947, territori deputati a divenire Stato di Palestina. E una volta che si è deciso che la Palestina non poteva essere tutta la Palestina storica, quindi io credo che quello che Israele sta facendo è veramente un pessimo presagio rispetto a quello che verrà. Non c'è sicuramente in questo quadro nessuna possibilità di risoluzione della questione dei palestinesi e io penso che accadrà quello che quel magnifico libro, non so se lo conoscete, Israeli Lobby on US Foreign Policy di Mashnaimer, dice si arriverà ad un punto in cui Israele avrà creato una matrice di controllo tale nei territori occupati che non si potrà fare altro che addivenire ad uno Stato unico, dove ci sarà e si chiederà a gran voce diritti uguali per tutti. Questo non significa che io sono a favore di uno Stato o di due Stati, secondo me questa cosa ai palestinesi per quanto riguarda il loro stato, chiaramente agli israeliani, agli israeliani, scusate, arabi, cristiani, scusate, musulmani, ebrei e cristiani, però al tempo stesso la comunità internazionale non può continuare a parlare di Sì, perché indubbiamente il diritto al ritorno comporta agli occhi di Israele, e come poi in realtà sarà, dovrebbe essere, una sovrappopolazione di persone arabe, perché se tornano tutti rifugiati nei vari paesi in tutto il mondo, Israele diventa minoritario a livello di popolazione. Quindi questo è. Dove sta scritto che ci debba essere una maggioranza etnica? Allora immaginiamo che sia l'Iran che si comporta così e che quindi maltratta tutti quelli che non sono di religione musulmana. Che cosa si fa? Si dichiara un embargo nei confronti dell'Iran. Questi sono gli standard che l'Europa usa con tutti, meno che con Israele. Cioè la democrazia o è per tutti o non è, la giustizia o è per tutti o non è. È così la lotta alla discriminazione è per tutti. Sì, hai perfettamente ragione, però secondo me è scritto nella mente degli israeliani, perché nel momento in cui vedi i palestinesi come nemico, è chiaro che la sovrabbondanza, la sovrappopolazione del nemico mette in dubbio la tua sopravvivenza. Questa penso sia nell'ottica, quello che dici te è giusto, no? In ogni democrazia ci sono delle minoranze, delle maggioranze, ma questo non vuol dire avere accanto, vivere accanto al nemico, no? È una. Io Sì. Israele non è una democrazia. Io infatti non mi aspetto che questa cosa cambi da oggi a domani per Israele, però io mi aspetto che il mio Stato, l'Italia, si dissocchi da quello che Israele fa. E io mi aspetto che l'Europa si dissoci da ciò che Israele fa, cioè serve Aspettiamo tutti. ed economiche. Perché questo stato di cose smetta di esistere. Aspettiamo tutti questi, sì. Credo che veramente ho vissuto abbastanza e studiato ricerca con i rifugiati abbastanza a lungo per dire io non credo che ci sarà questo, semmai tu conoscessi il diritto, cioè la possibilità di esercitare il diritto al ritorno. Il diritto al ritorno non significa necessariamente tornare, significa innanzitutto un diritto alla giustizia e diritto a scegliere giustizia per quello che è successo nel 48, perché oggi c'è ancora gente che discute se la Nakba sia successa oppure no. Immaginate se questo succedesse nei confronti degli armeni o degli ebrei che hanno subito l'orrore dell'Olocausto, ma perché palestinesi tutto questo deve essere negato? Cioè, ma io questo me lo chiedo da giurista, non da individuo, da individuo qualsiasi, da attivista, da persona che avendo studiato queste cose si chiede perché ci sia questa distonia nell'applicazione delle regole tutte le volte che si tratta di Israele e di Palestina. E poi il problema che Israele veda i palestinesi come un nemico, beh, questo è un problema di Israele, aiutiamolo o aiutiamola a risolverlo. Ma sai, se Israele non si crea un nemico o non si interfaccia con l'idea di un nemico, chiaramente si trova in una situazione di una società che si disgrega, perché al loro interno gli israeliani sono fra loro divisi, sai benissimo, no? Per provenienza, dai mizrahi, ashkenaziti, sefarditi, e quindi l'unità, la compattezza la trovano in un referente esterno che appunto definiscono e si costruiscono da sempre come nemico. E infatti su quello che dicevi te è perfettamente quella la questione, cioè di dividere e di non mischiare il fatto del diritto a ritorno, il che non vuol dire che poi ci sarà una massa di palestinesi che tornano, perché io sono andata anche in Libano, nei campi profughi, sono entrata in contatto con le nuove generazioni. C'è da domandarsi una cosa molto semplice: ma questi giovani radicalizzati, nati in altri paesi, no? Che quindi non conoscono minimamente la Palestina se non dai racconti dei genitori, ma forse più dei nonni. Veramente torneranno o tornerebbero in Palestina? Però questo non toglie il fatto che la rivendicazione deve essere fatta chiaramente per il diritto, che tu lo possa esercitare o meno è un altro discorso, però il diritto al ritorno, ed è questo che da sempre, no? Da 72 anni, sia le risoluzioni che noi attivisti e sia anche il popolo palestinese cerca di portare avanti come punto cardine della questione palestinese. Dopodiché, non so, un'ultima. Chiudiamo qui questa intervista che è stata molto esaustiva. Il libro che uscirà è già uscito, ma in inglese, solo in inglese. Allora, il libro è stato pubblicato da Oxford University Press, si intitola Palestinian Refugees in International Law ed è uscito a giugno di quest'anno. E sarà, noi stiamo chiaramente pensando per la traduzione in arabo, perché è quella più importante in questo momento, e se dovesse esserci la possibilità sarei fiera di fare la traduzione in italiano, ma almeno un compendio. Francesca, ti salutiamo e ti ringraziamo veramente tanto di tutte le informazioni che ci hai detto e ci hai ragguagliato sulla situazione attuale di questo argomento, diciamo, spinoso sul diritto del ritorno. Grazie. Grazie. La rassegna musicale che vi proponiamo questa settimana è quasi tutta all'insegna della musica da film. Il primo brano è Suad Massi Salam, la vera protagonista della musica del film palestinese Between Heaven and Earth, Tra cielo e terra, di Nawa Nayar, presentato alla rassegna dello Schermo dell'Arte nell'ottobre scorso. A seguire il trailer di Paradise Now di Hani Abu Assad. Il regista dirige un film sulle vittime della libertà, le ultime 48 ore di due kamikaze palestinesi. Il film ha ottenuto una candidatura a premio Oscar, è stato premiato al Festival di Berlino e ha vinto un premio ai Golden Globes. Il terzo ascolto è Il giardino dei limoni di Erin Reiklis. Una donna è disposta a sacrificare la vita per il giardino di limoni che per anni ha coltivato assieme al padre. Il film ha ottenuto una candidatura a Davide di Donatello. E per finire, l'ultimo brano che non è musica da film è del gruppo musicale Shalabia, da cui ascolterete Eloati Didi, il dolce di te. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alla stessa ora. Inshallah. سلام ولا حمشي من سكان وبودع أملي فيك يا حلمي بسرعة فات لما تعشمت بيك جاية بسلم عليك ودعني باهتمام سلام أنا تقريبا مشيت أشوف وشك بخير أنا تقريبا نسيت ومن فرقك من كتير بعد لقانا الأخير مش بستطعم كلام يا سنين عمري وبقيتها إلا أنا ما عشتهاش يا قصة جيت قريتها فجأة ما كملتهاش يا حكاية ما ابتدتها نزل فصل الختام يا سنين عمري وبقيتها إلا أنا ما عشتهاش يا قصة جيت قريتها فجأة ما كملتهاش يا حكاية ما ابتدتها نزل فصل الختام سلام انت وانا باختصار بينا ما فيش اتفاق جوانا فيه انكسار برانا فيه كبرياء مع اننا مش طالعين سلام سلام وانا حمشي من سكات forsaken by hope. Searching for its place. Mama. Mama. In two extraordinary days, two lifelong friends will struggle with an impossible choice. Beneath an orange sky. This fall, Warner Independent Pictures takes you to the streets of Palestine. With my brother standing by. Where one moment can change the world. Brother, you know it is, you know it is. Such a long road we've been walking on. Sometimes, sometimes my mind is too. We want to go back. Carry on. Paradise now. Il giardino di limoni rappresenta una minaccia reale e immediata per la casa del ministro e per lo Stato di Israele. Pertanto la corte respinge l'appello e ordina lo sradicamento degli alberi. L'ho ereditato da mio padre. Non accetto nessun risarcimento. Andate via! Andate via! Mi sta facendo causa. Cos'hai contro i suoi alberi? I servizi segreti li vogliono abbattere e io mi fido di loro. Il ministro della difesa ha paura di un po' di limoni. Voi giornalisti state montando un caso che non esiste. Se vinciamo noi, vince l'intera nazione palestinese. Ci deve essere un'altra soluzione. 3.000 anni e nessuno l'ha trovata. Che vuoi da me? È ora che qualcuno la trovi. احوال يلي معاك Oi tik bit den ko ko ko ko bil fagriya yalla bina ala bab Allah ya sana ya igal sabah sabah el ya sta'ti يلا بينا يلا الوقت هو راح الصبر طيبة يا استعطي